Lascia di andare. Lascia di andare. Gigi, scusami un secondo. Vorrei fare un saluto regolare a Fabiola e a DJ Speciale. Grazie, ci becchiamo. Ciao a tutti, raghi. Ciao a tutti, raghi. Ciao a tutti, raghi. Questo è il mio programmino. Riflessione di un nottambulo. Perché il buongiorno non si può vedere dal pomeriggio? Still a ray of soul.

gioie, dolori. Una persona molto strana e assai curiosa. Sai annoiarmi in ogni cosa. 10 se mi prestano la bici. Il programmino è finito, leccatevi il dito. È naturale.